Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Innovazione è la parola magica di questa puntata pasquale, parola sulla quale vi porteremo a riflettere. In un'Europa dove le economie più sviluppate, soprattutto nel nord del continente, investono sempre più sull'innovazione, quale motore della crescita per spostarsi su settori dove risulti vincente una forza lavoro più qualificata, l'Italia arranca. Arranca sui brevetti, arranca persino nell'alfabetizzazione informatica della popolazione. Sono statistiche, non opinioni. In Europa siamo definiti innovatori moderati. Francia e Germania corrono, la Spagna è in seconda linea e l'Italia, dopo anni di colpevole assenza di una politica industriale in questo senso, scivola nelle retrovie. Così quei pochi che investono in formazione finiscono per prendere la via dell'estero. Quale futuro se non riusciamo a invertire drasticamente la marcia, modernizzandoci? In Olanda penso che comunque ci sia più meritocrazia. Io personalmente non ho mai avuto problemi, non ho mai avuto bisogno di raccomandazioni per avere un lavoro. Però è anche vero che per tenersi il lavoro bisogna meritarselo. Nicola D'Amato, 37 anni e un account executive ad Amsterdam, in Olanda. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio notiziario. Italia paese ricco ma per pochi e non per i giovani. Secondo Banca Italia, i 10 italiani più ricchi posseggono una fetta di ricchezza equivalente ai 3 milioni più poveri. Questo grazie sempre più ai patrimoni accumulati in passato e sempre meno al reddito. Negli ultimi anni si è invertita la distribuzione di ricchezza tra classi di età. Gli anziani sono più ricchi dei giovani. Soprattutto l'Italia è un paese dove la ricchezza ha smesso di essere percepita come frutto di meriti individuali. Nuovo record per la disoccupazione giovanile, ora al 31,9%, picco del 49,2% per le giovani donne del mezzogiorno. Per l'Istat, al persistente calo dell'occupazione più giovane si contrappone per paradosso l'aumento di quella adulta. Così un disoccupato su due è under 35. Secondo un sondaggio Confesercenti, l'81% dei giovani è molto preoccupato per il lavoro. Quasi il 79% degli italiani si dichiara disponibile a trasferirsi all'estero a caccia di opportunità di impiego, lo afferma la società di recruitment Hays. Ai primi posti si conferma l'Europa, mentre diminuiscono i professionisti disposti a trasferirsi in Nord America. 6 professionisti su 10 hanno un'opinione pessima del nostro mercato del lavoro, la necessità di soddisfazione personale prevale sul salario. Quali le professionalità manageriali più richieste oltre le Alpi? Per Elan International sono soprattutto direttori marketing, direttori risorse umane internazionali e direttori comunicazione e relazioni esterne. E la crisi sta facendo sentire i suoi effetti anche sui giovani imprenditori. Negli ultimi 3 anni i titolari under 30 sono diminuiti di oltre 28.000 unità, accentuando una flessione che dal 2005 sfiora il 20%. Le diminuzioni colpiscono soprattutto il nord-est, lo afferma Data Giovani. Per la CGA oltre 11.000 aziende sono fallite globalmente lo scorso anno in Italia. E per il 68% degli imprenditori il paese non sembra favorire la nascita di start-up. Il 60% è convinto che la crisi economica abbia depresso l'adozione di strategie a favore delle nuove aziende. Lo sostiene un sondaggio dei giovani imprenditori di Confindustria. In Italia le aziende che investono in start-up sono solo il 16%. 4 giovani ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova hanno ottenuto il riconoscimento Tier 35 Giovani Innovatori della rivista americana Technology Review dell'MIT. Calano, secondo lo European Patent Office, le richieste di brevetti dall'Italia, mentre in Europa e nel resto del mondo lo scorso anno sono cresciute nonostante la crisi. Il bel paese è solo sesto nel continente. E se l'Italia allineasse le proprie quote di investimenti in ricerca e sviluppo alla Finlandia, l'incremento in produttività del lavoro sarebbe pari al 2-3%, lo afferma uno studio Luis Lab. Per l'Ocse siamo al 31° posto per investimenti in ricerca e istruzione avanzata. Infine, occorre aumentare l'incidenza di immigrati ad alta qualificazione sul totale della popolazione. In Italia sono l'1,28%, un terzo della Spagna e un quinto della Germania. Un motivo per restare o tornare. Ne abbiamo parlato all'inizio di quest'anno, quando vi abbiamo raccontato la storia dei 6 giovani professionisti under 40 vincitori del bando del Ministero dell'Istruzione per sviluppare l'agenda digitale e modernizzare la scuola. Giovani Talenti ha raggiunto 2 di loro. Al microfono di Maria Piera Ceci raccontano il loro punto di vista sulla fuga dei cervelli e la possibilità di tornare. Donatella Solda Kuzman, 34 anni, residente in Polonia, docente di diritto europeo ad Oxford. Non lo vedo tanto come un problema questo del ritorno dei cervelli, perché i cervelli possono lavorare benissimo in Europa, non è necessario essere residenti in Italia. L'importante è consorziare le energie, essere resi partecipi dei progetti di ricerca. Però questa esperienza che stai facendo in Italia ti potrebbe riportare definitivamente nel nostro paese o non hai nessuna intenzione? Potrebbe anche essere. Nulla toglie ritornare in maniera, diciamo, virtuale. Però ci torneresti volentieri, insomma, se ce ne fossero le possibilità. Sì. E ora ascoltiamo Damien Lanfrey, 32 anni, italo-francese, ricercatore esperto di e-government e di democracy. Lavora tra Londra e Hong Kong. Se l'occasione di rimanere in Italia per fare qualcosa con loro, assolutamente sì. Non necessariamente deve essere col ministero, può anche essere che invece io ritorni a fare quello che facevo prima, che tanto mi interessa. Se ce ne fossero delle opportunità, tu resteresti comunque nel nostro paese? Lavorare bene, sì. per lavorare bene sì, per il linguaggio di lavoro che si sta utilizzando in questo momento, per esempio al Ministero, per lavorare con gente come Profumo o Calderini, sì, già cambiare il modo di lavorare è molto bello, secondo me, per un giovane. Secondo me per un giovane è molto importante, anche se si lavora solo un anno, di fare tante cose, perché poi queste saranno spendibili, riutilizzabili. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: la Banca Mondiale cerca funzionari per il suo panel ispettivo a Washington, Stati Uniti, scadenza per i CV 13 aprile, info su worldbank.org. Funzionari all'Unione Europea nei settori amministrazione pubblica, legale, revisione dei conti, comunicazione e relazioni esterne, scadenza per i CV 17 aprile, info su europa.eu/epso. E infine un ingegnere per lo sviluppo hardware alla ABB di Turgi in Svizzera, scadenza per i CV 31 maggio, info su abb.com. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Olanda, rotta verso gli splendidi canali di Amsterdam. Nome: Nicola. Cognome: D'Amato. Età: 37. Città di origine: Palermo. Studi: laurea in marketing e comunicazione d'azienda all'Università di Urbino. Anno in cui hai lasciato l'Italia: Natale 2004. Per andare dove? Paesi Bassi. Perché? Per mettermi alla prova e poter realizzare i miei sogni. Quale lavoro svolgi attualmente? Account executive per il più grande distributore indipendente al mondo di prodotti networking. Dove? Amsterdam. Tornerai? No, impossibile. Ritorno in Italia solo per brevi vacanze e per rivedere la mia famiglia. Better Off Alone del gruppo olandese Dance Alice DJ, per introdurre la storia di Nicola D'Amato. Storia che comincia con una tua presa di posizione molto netta. Se state cercando qualcuno che vive all'estero ma che non è contento di esserlo e che desidera tornare in Italia, io sono la persona sbagliata. Sono più adatto a convincere le persone a emigrare. È scritto a giovanitalenti@radio24.it. Sarò altrettanto sintetico. Perché restare fuori e non provarci qui, Nicola? Siamo un paese senza speranza? In questo momento mi verrebbe dire di sì. Io cerco sempre di essere ottimista, però da quello che vedo in realtà un paese che comunque continua a eleggere persone, insomma, irrispettose delle istituzioni o colluse con mafia, eccetera, eccetera, è un paese dove i cittadini non hanno il senso della responsabilità. Però in realtà ci sono anche tante altre persone che secondo me hanno questo senso di responsabilità. Vero è che comunque si può uscire da questo momento se tutte le persone iniziano a avere più senso di responsabilità. Come sempre facciamo un passo indietro, iniziamo dai tuoi studi, un anno di economia all'Università di Palermo, poi quella che tu stesso definisci una fuga a Urbino per intraprendere la strada in marketing e comunicazione. Perché quella sterzata così improvvisa? In realtà non ero contento di stare a Palermo, perché come in tante altre università di grandi città c'erano troppi problemi, troppa disorganizzazione, quindi ho scelto di andare a Urbino perché in quel momento era una delle tre università d'Italia in cui si poteva studiare marketing con dimensioni più umane, più piccole. Infatti quella scelta cambiò la mia vita. E a Urbino prende corpo la tua voglia di andare all'estero. Londra e gli States si stagliavano all'orizzonte, ma non siamo ancora arrivati al momento dell'espatrio. Prima ci dai un giudizio sulla formazione accademica in Italia? Serve studiare qui nella penisola? Se consideriamo che bisogna studiare per poi entrare nel mondo del lavoro con delle conoscenze sia teoriche che pratiche, considerando il numero di disoccupati o di studenti fuori corso in Italia, sembra proprio di no. Io comunque consiglierei chiaramente a tutti di studiare all'estero anche per un motivo di differenziazione. Ora un punto molto molto importante della tua storia, perché tu un lavoro in Italia ce l'avresti avuto nelle aziende di famiglia a Palermo, un lavoro che ti avrebbe anche garantito un buon tenore di vita. Altri tuoi amici hanno scelto questa strada, e invece, domanda che ti faccio, cosa ti ha spinto ad andartene? Motivi professionali oppure c'è stata un'altra molla? Non volevo stare in Sicilia, avevo appunto questa voglia di spostarmi, anche se diciamo sono fortunato perché la mia famiglia ha delle attività e quindi potevo comunque stare bene anche in Sicilia. Ho avuto sempre voglia di muovermi, di vedere posti nuovi e soprattutto anche, ed è una cosa che faccio ancora adesso, di uscire dalla mia comfort zone. E quanto la tua scelta è stata compresa a casa, anche dai tuoi amici? Alcuni probabilmente non la condividevano, perché comunque sono le persone che magari temono il cambiamento. Altre persone invece sono magari persone che invece mi incitavano a farlo, perché vedevano l'opportunità. E circa 8 anni fa l'espatrio. Com'è stato l'impatto con l'Olanda in termini assolutamente pratici? In Olanda devo dire che ho vissuto il periodo più brutto della mia vita, ma anche il più bello. Quindi arrivare in Olanda non è stato facile e non penso che cambiare nazione appunto sia un momento facile. Però nel tempo devo dire che poi ho risolto tutti i problemi, quindi ho trovato casa, ho trovato lavori migliori, ho comprato casa. casa, quindi adesso sto veramente bene, ma l'inizio è sempre un po' difficile. Prima di arrivare alla tua attuale azienda, 5 anni fa, in 3 anni e mezzo ne hai cambiate altre 3, Customer Representative, Sales Representative, Account Manager, questi ruoli che hai ricoperto. Di cosa ti sei occupato, ma soprattutto ci descrivi il mercato del lavoro in Olanda, quanto è meritocratico? Io sono fortunato, devo dire. In Olanda comunque sì, ci sono tante opportunità, ma non è facile come si può pensare. Comunque la crisi è una crisi mondiale e non esiste comunque un paradiso dove qualcuno si trasferisce e trova subito il lavoro dei sogni, no? Penso che comunque ci sia più meritocrazia, questo sì. Io personalmente non ho mai avuto problemi, diciamo non ho mai avuto bisogno di raccomandazioni per avere un lavoro, no? Però è anche vero che per tenersi il lavoro bisogna meritarselo e quindi là è una questione di impegno personale. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Ho lavorato in contesti internazionali, in aziende statunitensi e taiwanesi, scrive a giovanitalenti@radio24.it, aggiungendo: ho avuto la fortuna di non ritrovarmi in aziende con troppi livelli gerarchici, ho goduto di molta libertà e ho imparato tantissimo. Gli americani mi hanno insegnato a prendere seriamente il mio lavoro, ad essere responsabile dei miei risultati e della mia vita, un concetto che non vedo applicato in Italia. Quali concetti vedi applicati invece qui, Nicola? Ma secondo me in Italia le persone sono abituate un po' a piangersi addosso e invece dovrebbero pensare di più, invece che alla mancanza di meritocrazia, al fatto veramente di meritare per esprimere un loro lavoro e di essere seri in quello che fanno. Nel 2007 passi all'attuale azienda, la Network Hardware Resale. In sintesi, di cosa ti occupi? Allora, io sono praticamente un broker e mi occupo quindi di acquistare e rivendere materiali di networking. Lavoro per il più grande distributore al mondo in questo settore, per loro praticamente sviluppo il mercato italiano. E giusto per dare un'idea dell'ambiente assolutamente competitivo in cui ti trovi a lavorare, ci spieghi cosa accadde il giorno in cui tornassi dagli Stati Uniti dopo un training di 3 settimane oltreoceano? Quali furono gli obiettivi prefissati? Sono partito da zero, quindi senza nessun cliente. Il mio general manager allora mi disse che per tenere la sedia che avevo quindi un anno di tempo per fatturare $1 milioni in Italia. Concetto assolutamente puro di meritocrazia, cioè tu lavori in un ambiente meritocratico al 100%, o sbaglio? Esatto. Addirittura io non ho uno stipendio, io lavoro con 100% di commissioni e all'inizio, quando dovevo avviare il mio business e non avevo abbastanza clienti per pagare una specie di commissione fissa garantita che loro mi danno, avevo praticamente un debito nei confronti dell'azienda che ho dovuto ripagare in futuro. In un'email che c'è scritto, hai colto nel segno dei problemi italiani del mercato del lavoro, quando parli di un mondo dell'impiego dove si lavora per pochi soldi nelle piccole aziende, mentre nelle grandi si finisce per operare in una sorta di caserma dove per fare carriera serve l'anzianità e l'appoggio di un superiore, piuttosto che la dedizione al proprio lavoro, denunci. Nicola, non è un atteggiamento suicida che ci porta nel baratro? Sicuramente è un atteggiamento suicida. Come dicevo prima, secondo me le persone dovrebbero avere più responsabilità e dovrebbero fare meglio il loro lavoro, sia l'imprenditore che dovrebbe secondo me dare più libertà ai propri dipendenti, sia i dipendenti che dovrebbero magari anche sia non accontentarsi, quindi continuare a cercare un lavoro migliore, sia anche perfezionarsi per appunto meritare un lavoro migliore. A 37 anni continui a sognare e a sentirti vivo, prefiggendoti continuamente obiettivi da raggiungere, e hai un grande messaggio da lanciare ai nostri giovani, spronandoli a inseguire dei wild dreams. Spiegaci. Bisogna essere ottimista, bisogna smettere di piangersi addosso. Le persone che hanno avuto successo nella vita sono comunque persone ottimiste, persone che seguono le loro passioni, che hanno dei disegni, dei goal chiari e che lavorano ogni giorno per raggiungerli. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? Cambierei proprio la mentalità e il fatto che troppe volte c'è troppo pessimismo. Dovremmo essere tutti un po' più ottimisti, perché comunque nella vita avere problemi serve per migliorarci. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Nicola D'Amato, 37enne account executive nella sede olandese di una multinazionale americana specializzata nella distribuzione mondiale di prodotti di networking. Nicola vi è giunto dopo una laurea in marketing e comunicazione a cui ha fatto seguito un espatrio quasi immediato, lasciandosi alle spalle le opportunità lavorative nelle aziende familiari a Palermo, in Olanda. Nicola cambia diverse aziende e posizioni prima di approdare al suo incarico attuale. Ad Amsterdam sperimenta sulla propria pelle un sistema di lavoro completamente meritocratico, basato su autonomia e indipendenza totali. Dell'Italia teme l'ambiente lavorativo ipergerarchico, quasi da caserma, e ai giovani connazionali dice: pensate in grande e osate, siate ottimisti. Ci raggiunge ora in linea Federico Lagni, Executive Manager di Area Networking, uno dei portali di riferimento per i professionisti del settore IT e telecomunicazioni. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Federico, iniziamo subito spiegando cosa siete in breve. AreaNetworking.it è uno dei maggiori punti di riferimento online in Italia per quanto riguarda il settore dell'information technology e delle telecomunicazioni. comunicazioni. In poche parole è un portale in cui vengono pubblicate molte tipologie di contenuti, gli articoli tecnici, news, interviste ai maggiori player del settore, approfondimenti, sondaggi, comunicati stampa e molto altro ancora. Grazie poi a tante altre attività, devo dire che risultiamo essere un punto di convergenza tra professionisti e imprese. Allora, voi avete aperto nei mesi scorsi una rubrica sugli italiani all'estero nel settore IT e telecomunicazioni, ne avete intervistati diversi. Quante storie come quelle di Nicola avete raccolto, o anche ancora più paradigmatiche, no? Giovani professionisti competenti che vivono la vita professionale come una sfida da vincere in base al merito e che invece vengono respinti dal sistema Italia? Sì, ne abbiamo raccolte varie. Possiamo infatti affermare che il minimo comune denominatore è sempre la mancanza di meritocrazia, no? Nell'ambito professionale, e quindi poi di conseguenza l'impossibilità di essere produttivi al massimo. Poi mi piace dire anche e sottolineare che Nicola ha esaltato quel che è una caratteristica che spesso magari ignoriamo, quindi il discorso della meritocrazia è vero, ma è anche da ribaltare dall'altra parte, perché se è vero che non ci sono aziende che offrono meritocrazia, ci sono anche persone contestualmente che non la chiedono, non la cercano e che si aspettano una carriera grazie a anzianità o raccomandazioni, quindi anche questo è un aspetto da sottolineare. Assolutamente. In un'email a giovanitalenti@radio24.it è messo nero su bianco una serie di punti relativi ai vantaggi che questi giovani professionisti trovano nel vivere e lavorare all'estero. In breve ce li riassumi. Diciamo una maggiore flessibilità nell'ambiente lavorativo, quindi l'uso del telelavoro ad esempio dove possibile, e una filosofia persona centrica, quindi si va incontro alle esigenze dei lavoratori, no? In modo tale che la soddisfazione di questi aumenti. C'è una maggiore efficienza anche dei servizi pubblici, e non è una cosa da tralasciare perché questo agevola anche lo spostamento a casa lavoro e viceversa. C'è una maggiore tutela del lavoratore, c'è anche meno stress lavorativo probabilmente come conseguenza delle suddette caratteristiche, e anche le persone all'estero solitamente vengono premiate e sponsorizzate per quello che fanno, per il lavoro svolto. Federico, qui però arriviamo a un punto importante, la maggiore considerazione del settore IT all'estero. Veniamo al nocciolo del problema. In un mondo dove internet, se fosse un paese, sarebbe la quinta potenza economica mondiale, in Italia abbiamo un sistema da dove le multinazionali scappano trasferendo all'estero le attività di ricerca e sviluppo, un paese bacchettato ogni anno dall'Europa che ci accusa di essere indietro sull'innovazione. Allora, quanto tempo abbiamo perso? Quanto è stato criminale ignorare per anni un settore in grande crescita, condannando al declino anche le prospettive dei giovani? Criminale è una parola che ben esprime il danno fatto, no? Perché di tempo ne abbiamo perso tantissimo, e questo tipo di perdita è un danno appunto veramente enorme, dal momento in cui il tempo sappiamo tutti essere una delle pochissime cose totalmente irrecuperabili. Potrebbe essere un eufemismo, ma possiamo dire di poter recuperare quello che ancora dobbiamo perdere, quindi insomma abbiamo una speranza, però ecco, da qui al futuro, no? E su quello che abbiamo perso non c'è nulla da fare. È chiaro anche che i giovani necessitano di un paese agile, competitivo e soprattutto in grado di offrire opportunità professionali, e questo lo si fa con l'innovazione, quindi con la tecnologia. Che sviluppi anche un'industria dell'innovazione e della tecnologia. Il paradosso è proprio che in Italia questo non viene valorizzato, mentre all'estero ha un peso molto più determinante e di conseguenza gli occupati nel settore sono molto più valorizzati. C'è anche un messaggio importante: i nostri giovani espatriati all'estero hanno voglia di contribuire a questa ricostruzione, giusto? Esattamente. Noi stiamo vedendo che per quanto uno si possa trovare bene in un paese estero, ha comunque sempre quella voglia nascosta di poter migliorare le cose in Italia, quindi diciamo che non c'è ancora questa preclusione, questa negatività nel non voler più sperare che l'Italia prima o poi si rialzi. Grazie a Federico Lagni. E domanda diritto per Nicola D'Amato: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Intanto direi che le difficoltà servono per crescere e che bisogna quindi individuare le nostre passioni, avere goal chiari, evitare il pessimismo e andare comunque avanti. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi sesta puntata della nostra inchiesta mensile sulle parole o le espressioni che fanno fuggire i giovani dall'Italia. Le parole chiave di oggi sono percorsi di carriera. Raffaella Sadun, assistant professor alla Harvard Business School e coautrice della ricerca Managers Italiani, fedeltà o performance. Le imprese in Italia sembrano essere molto riluttanti ad adottare pratiche che valorizzano il merito. Questo è un deficit che dal nostro studio sembra essere molto diffuso, anche se ci sono grosse differenze. In particolare in Italia abbiamo trovato grosse differenze fra imprese familiari e non familiari, dove appunto sembra che le imprese familiari abbiano una tendenza ad essere ancora più riluttanti rispetto alla media, quindi ci sono altri criteri di promozione che vengono adottati. Quali sono? Le implicazioni sono due. Il primo è che se una persona già è stata assunta in un'impresa in cui il merito non viene valorizzato, naturalmente questo ha un effetto demotivante. Perché devo lavorare se il mio sforzo non viene riconosciuto? Però c'è un secondo canale che secondo me è ancora più importante, che è un effetto di selezione. Quindi se una persona pensa di poter contribuire e pensa una persona di talento, comunque che non è avversa al rischio, si ritrova a lavorare in condizioni che penalizzano il proprio merito, non ha nessun incentivo a rimanere in Italia, quindi c'è un effetto di selezione per cui i lavoratori più meritevoli o comunque più di talento tendono a uscire fuori dal mercato del lavoro. Ma se il merito non è un parametro per il percorso di carriera in Italia, quali sono i parametri adottati qui? C'è una forte componente legata all'anzianità, ma c'è anche quello che noi abbiamo chiamato un meccanismo di fedeltà. Per certe imprese è meglio avere yes men o comunque delle persone che non hanno iniziativa e che dimostrano più fedeltà rispetto alla proprietà aziendale rispetto ad una persona appunto che potrebbe essere più indipendente oppure potrebbe compromettere l'uso delle risorse aziendali per fini che non siano strettamente collegati alla massimizzazione dei profitti o comunque alla performance. Quindi è un meccanismo basato più sulla fedeltà rispetto al merito. Ma è totalmente antieconomico? Abbastanza, sì. Ha degli effetti decisamente deleteri, non solo sulla crescita dell'impresa, ma anche sulla crescita del paese. E all'estero, invece, quali sono i parametri per i percorsi di carriera? In paesi anglosassoni, soprattutto, la valorizzazione del merito è molto più diffusa. Quanto questo sistema immeritocratico spinge molti giovani professionisti ad andare all'estero? Trovo tantissimi italiani all'estero che sono veramente eccezionali e penso che molto abbia a che fare con questo rifiuto di un sistema non basato sul merito. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it e le pubblicheremo sul web. Resta attiva la nuova iniziativa sui nostri canali online. Compiliamo insieme un manifesto di proposte dei giovani talenti italiani per rendere il nostro un paese dove i migliori circolano e non scappano. Aspettiamo le vostre idee. Infine, siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona Pasqua da Sergio Nava.